Noi abbiamo una posizione critica a due livelli. Allora, un livello essenzialmente politico, perché noi, nonostante insomma, il Comune, come è stato anche ribadito, ci ha dato delle rassicurazioni riguardo al fatto che assolutamente non c'è nessuna volontà di voler entrare e interferire con quella che è la nostra festa, non ci hanno convinto queste rassicurazioni, in quanto riteniamo che un'operazione di questo tipo, cioè fare un evento che in un certo senso tende a sovrapporsi a quello che succede in Via del Pratello, lo leggiamo come un tentativo di iniziare, diciamo, a provare a istituzionalizzare o comunque entrare all'interno della nostra esperienza. E anche alcune cose che ci sono state chieste in via, diciamo, preliminare, ci sono sembrati un po' dei tentativi di provare a limitare i nostri spazi, in quanto è arrivata una richiesta di chiudere prima, sono stati mossi dei rilievi riguardo alla parte del secondo palco, insomma, della pedana piccolina che montiamo nella zona di fronte alla trattoria Fantoni, tutte cose che insomma sarebbero tradotte con una limitazione degli spazi e dei tempi della festa, che già di per sé vengono da anni di, diciamo, compromessi e tentativi di poter arrivare con i nostri messaggi, con il nostro programma, comunque venendo incontro anche a esigenze di non arrivare troppo tardi, eccetera eccetera, insomma rendere anche tutto più snello e fruibile. Questo sul piano politico, detto in due parole. Sul piano logistico, diciamo che a noi sembra che non sia una soluzione ottimale, in quanto negli ultimi anni, da un punto di vista della sicurezza, quindi lasciando perdere il lato degrado e gestione della piazza e code polemiche riguardo al post festa, perché poi la nostra festa finisce alle 7, ma insomma poi la gente magari si intrattiene in strada per più tempo, da un punto di vista essenzialmente di sicurezza, da quando uscì la direttiva Piantedosi, che era diciamo molto concentrata sul discorso di afflusso e deflusso e uscite di sicurezza, sicuramente togliere un varco che chiude di fatto quella che era un grande sfogo, una grande via di sfogo a Via del Pratello, che è fondamentalmente Piazza San Francesco, quindi il varco su Via del Borghetto, secondo noi introduce un elemento di problematicità, insomma. Perché Piazza San Francesco viene utilizzata come valvola di sfogo, vista la grande affluenza su Via del Pratello, no? Sì, è una delle valvole di sfogo, chiaramente Via del Pratello ha tutte le vie di sfogo, che sono tutte le traverse, e in più, diciamo, Piazzetta San Rocco, che è quella dove noi montiamo la pedana principale, ha di per sé degli sfoghi molto ampi, però chiaramente Via del Borghetto costituiva una via di sfogo importante. Sicuramente, ecco, facciamo di tutto perché tutto vada a fili liscio, e sicuramente la sicurezza è una delle priorità principali anche di tutto il lavoro di elaborazione del piano di sicurezza e della relazione tecnica che noi alleghiamo alla domanda di manifestazione, però chiaramente ce n'è una in meno, insomma, c'è una valvola di sfogo in meno, considerando l'importanza che viene data a questo fattore qui. Secondo noi sarebbe stato meglio lasciare aperto almeno la strada e chiudere solamente il sagrato, ecco. Sono cose di cui noi stiamo discutendo. Noi abbiamo ovviamente un ingegnere che sta seguendo la parte, diciamo, nostra, e lo stiamo discutendo anche con gli ingegneri del comune. Ecco, sicuramente questo discorso della festa dal basso è un altro punto importante che noi ci teniamo a rimarcare, cioè la festa del 25 aprile, la festa nostra, trova senso nel percorso che c'è prima, cioè il fatto che effettivamente sia una festa che è sempre stata autogestita, autofinanziata, senza cappelli politici da parte di nessuno, e questa indipendenza qui è una cosa che noi abbiamo sempre difeso, ecco. È anche per questo che riteniamo che quello che è successo sia un campanello d'allarme, che non vogliamo minimizzare.